Buongiorno Brian e benvenuto sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Buongiorno Rachele, grazie mille dell'invito. Ciao a tutti. Allora, siamo qui Buongiorno. insieme a Brian Freschi per parlare di Il Mare Verticale, nuovo fumetto edito da Bao Publishing che vede appunto la collaborazione di Brian come sceneggiatore, scrittore, insieme a Ilaria Urbinati che invece è la disegnatrice. Partire proprio da questo punto qua, com'è nata la vostra collaborazione? Chi ha fatto, diciamo, il primo passo? Chi ha contattato chi? Allora, il primo passo è stato fatto da me. Io avevo in testa questo soggetto del mare verticale da molto tempo, addirittura da quando stavo scrivendo ancora Gli anni che restano, il mio primo libro con Bao, illustrato da Davide Auriglia. Avevo in testa questo soggetto allo stato grezzo e avevo già in mente fin da subito il tratto di Ilaria Urbinati, per l'appunto. E riuscire a lavorare con Ilaria per me è stato un grande onore, una grande benedizione, in un certo senso. Io le ho inviato una mail con il soggetto. E sono stato di tutto il tempo a incrociare le dita. Questo cioè non solo perché già seguivo i suoi lavori da tempo, ma anche perché lei è nel giro da tanti anni ed è molto richiesta in realtà come illustratrice, oltre al fatto che con i progetti è molto molto selettiva, come anche giusto che sia alla fine. E anche perché questo, il Mare Verticale, cioè, è stato il suo primo graphic novel, quindi un passo veramente importante. Lei aveva già lavorato nel campo del fumetto, però sempre con storie brevi, cioè non aveva mai lavorato su un libro di 190 pagine, quindi ripeto, è un passo veramente importante. Come ho già detto, ho scritto il soggetto Grezzo del Mare Verticale, avendo già in testa lei e il suo tratto. Quindi quando l'ho proposto, ho sperato in mille lingue che le piacesse, e poi è successo. È successo che le è piaciuto, che abbiamo proposto il progetto a Bao, il quale era entusiasta, e che tutto è partito in modo assolutamente liscio. Lavorare con Ilaria è stata una meraviglia, e anche qualcosa a suo modo di particolarmente buffo, perché all'inizio facevamo tutti professionali io e lei, cioè mancava poco che ci davamo del lei e che ci spuntavamo alla fine delle mail concordialmente. Poi in realtà è nata una bella amicizia e soprattutto per quel che riguarda il libro, un incontro di menti e di idee, cioè, e non solo di ruoli. Cioè, io personalmente adoro ovviamente lavorare con i disegnatori, però non amo allo stesso tempo quando si crea un rapporto in stile staffetta in una strada a senso unico, cioè della serie, ho scritto la sceneggiatura, tieni, disegnala così come ho scritto e poi ci risentiamo una volta stampato il libro. Ecco, così non mi è mai piaciuto. E per fortuna poi con Ilaria non è successo. Io e Ilaria ci sentivamo tantissimo al telefono, anche per ore e ore e ore, e leggevamo ad alta voce la sceneggiatura e analizzavamo ogni dettaglio. Questo finché Ilaria non è entrata completamente nel cuore della storia, cioè non solo come disegnatrice, ma anche proprio come autrice a tutti gli effetti. Tanto che ad un certo punto io mi fidavo ciecamente di lei e la lasciavo liberissima di sperimentare con le tavole, mentre al telefono finivamo col parlare soprattutto della psicologia dei personaggi e dell'andamento dello storytelling. Trovo che in un progetto di questo mole, con un tema così particolare, un'alchimia di questo genere sia veramente importante. Hai parlato appunto di un tema così importante perché già dalle prime pagine del vostro fumetto presenta subito il tema principale, oltre alla protagonista che è India, una maestra di scuola elementare che soffre di attacchi di panico. Ti volevo chiedere come mai avete deciso di trattare questo tema così delicato e così anche complicato? Personalmente il Mare Verticale è nato da un'esigenza. Questo appunto, anche ripetendo quello che ho già detto, è dato dal fatto che non mi capita spesso che il soggetto è stato buttato giù quando ancora stavo finendo di scrivere Gli anni che restano, quindi era proprio un'esigenza che sentivo nel profondo. Se devo entrare più nel dettaglio, posso dire che nasce da due macro esigenze. Questo per quel che mi riguarda. Cioè, la prima è un'esigenza personale, quindi legata a me, a tante persone a cui voglio bene, che mi sono sempre state vicine, quindi diciamo un'esigenza di vissuto, diciamo. La seconda invece macro esigenza nasce proprio da voler raccontare un problema come il DAP, cioè come il disturbo d'attacco di panico, che per assurdo, oggi come oggi, è ancora circondato da strati su strati di senso di vergogna e di tabù. Cioè, questo vale nella vita di tutti i giorni, sia per chi ne soffre per chi, e anche per chi non ne soffre, ma anche nella narrazione. Nei fumetti, ad esempio, non sempre è difficile trovare personaggi che soffrono di attacchi di panico, però allo stesso tempo è un aspetto che viene quasi sempre usato più per caratterizzare un personaggio che come cuore centrale di una storia. E con questo, vabbè, non voglio assolutamente giudicare, cioè un autore è liberissimo di scrivere quello che vuole, cioè non è che ora ogni storia deve parlare solo di attacchi di panico in senso stretto. Mi fa solo un po' strano strano che se ne parli così poco, cioè soprattutto se si tiene conto che ad oggi, e con ad oggi non intendo solo nell'ultimo periodo che abbiamo vissuto un po' incerto, ma proprio da un bel po' di anni a questa parte, il DAP è considerato il secondo disturbo più diffuso al mondo dopo i problemi cardiovascolari. Quindi, insomma, senza oggettivizzare e trasformare il libro in un vademecum che spiega al lettore come comportarsi oggettivamente in caso di attacchi di panico, io e Ilaria sentivamo che era un argomento che andava trattato in un certo modo e con rispetto. Una cosa che mi è piaciuta molto del vostro fumetto è questo parallelismo che torna più volte tra il mare e gli attacchi di panico. Come avete sviluppato questa unione tra il mare, appunto, e gli attacchi di panico? Partiamo proprio dalla base. La protagonista del libro, lei vive in un piccolo paesino di mare, lei fa proprio la maestra elementare in un paesino di mare, come può essere, cosa dicono, non ho mai nominato il nome del paese, però io vivendo nella Romagnola mi sono proprio basato sul mio paese che è Cesenatico, infatti chi magari di Cesenatico lo può riconoscere alcuni scorci, invece magari altri no, però ecco, diciamo comunque è un elemento, un paese molto molto vicino al mare in sé. Quasi tutta la vita attorno a questo paese gira attorno al mare, e la stessa protagonista, India, sente un legame molto molto profondo con il mare. È legata agli attacchi di panico un po' per questo legame che lei sente verso il mare, un po' perché il mare in sé è uno dei luoghi sulla Terra che ancora non sono stati totalmente sondati dall'uomo, hanno ancora tantissimo mistero, tantissime cose da svelare, una profondità insondabile per l'appunto, e da qui nasce poi il concetto del mare legato agli attacchi di panico, cioè dell'avventurarsi, del tuffarsi in uno stato di apnea verso un luogo sconosciuto. E verticale in questo caso perché è altezza uomo. Ok, quindi anche il titolo riprende un po' questo concetto. Esatto, e non riprende il pezzo di Paolo Benvenu, perché ho sempre chiesto questa cosa, però no, esiste una canzone di Paolo Benvenu, tra l'altro bellissima, che però io non conoscevo quando avevo pensato al titolo e al soggetto, quindi non è assolutamente ripreso da quella canzone. Sì, avevo visto la vostra intervista insieme a Cristina Portolano, in cui appunto lei vi diceva proprio questa cosa della canzone, sì, no, ma in realtà appunto è una coincidenza, ecco, non è voluta. Bene, Brian, io ti ringrazio tantissimo per averci raccontato meglio Il mare verticale, che appunto, ricordo, è appena uscito in libreria e in tutte le fumetterie per Bao Publishing, di Brian Freschi e Ilaria Rubinati. Grazie mille, a prestissimo.